Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire anche questa sera in diretta, per commentare i fatti di giornata insieme a me, Alessio Maurizi, Carlo Gabardini. Buonasera, buonasera a tutti. Il nostro stagista opinionista all'ultima settimana, riconfermato. Esatto. Però insomma, già sono contento di essere stato riconfermato fino a qui, ne sono felicissimo, mi mancherete un sacco. Con la nostra redazione, Laura Marchesi, Riccardo Poli, Andrea Piana che è coautore di questo programma, Valeria Bernardi in regia. Tra poco senti Oscar Farinetti, quello di Italy, per parlare con lui dell'emorragia di imprese italiane che quest'estate hanno approfittato di agosto per traslocare all'estero, per sparire, per andarsene. Lui, quello di Italy, che a Bari sta incontrando delle difficoltà per aprire un nuovo importante punto vendita di questa catena dell'alimentare italiano. Allora, se volete interagire, fare delle domande a Farinetti, potete scriverci già subito anche su Twitter. L'account del programma è @sipofare24, il mio Ale Maurizi, cominciamo. E il mio è @ Carlo Gabardini. Titoli. Venti di guerra sulla Siria, gli Stati Uniti pronti ad intervenire entro 48 ore con 3 giorni di raid mirati. Con Cameron e Hollande che si preparano ad appoggiare l'opzione militare, la Bonino avverte l'Italia non agirà senza l'avallo dell'ONU. I timori per la Siria scuotono le borse, l'Europa ancora in rosso, Milano in netto ribasso, nuova fiammata dello spread. Epifani avvisa il PDL, nessun ultimatum sull'IMU. Zaronato precisa, nessuna nuova tassa per coprire il taglio. Il pullman è precipitato in una scarpata in Irpini, aveva i freni rotti, lo afferma il perito delle vittime della tragedia. Il violento nubifragio su Roma, allagamenti, alberi abbattuti, nuova tromba d'aria tra Santa Marinella e la Dispoli. De Laurentiis furioso per l'incidente a Higuain, chiede 100 milioni di danni al comune di Capri, alla regione Campania. Madonna, la star più pagata dell'ultimo anno secondo Forbes, l'ex Material Girl ha incassato $125 milioni. Malfalco va senza catene, fuggia gli sguardi, sa che conviene, è indifferente, sorvola già. Perché noi siamo andati chi in vacanza, chi a Ostia, chi a casa, ma forse nessuno ha capito che il 1 agosto alle 19:40 il nostro paese, l'Italia, ha avuto una mutilazione del sistema democratico. Non riempitevi la bocca, passate alle azioni. La responsabilità usatela, il governo è così importante e allora non permettete che dei funzionari dello Stato di parte politica avversa, quella di Silvio Berlusconi, lo estromettano dalla politica. Ci ma tenete tanto, legge, rimboccatevi le maniche e fate! Di che cosa stiamo parlando? La fate. Legge è per tutti! No, non ma tutti devono... Berlusconi. Possiamo dire una colomba responsabile? Ma ci sono anche falchi responsabili, se questa è la terminologia che a lei piace, no? Falchi e colombe, dico, tutti siamo. E poi la responsabilità la dimostriamo sui fatti, no? su quello che ognuno di noi porta avanti e prende come posizione. Falco a metà, Gabardini, hai sentito anche oggi che scelta musicale, Grignani, 1995. Complimenti. Il dibattito ornitologico esatto, sul falco a metà, che sembra un ottimo secondo, un falco a metà, direi. Visto che adesso parliamo con parlando i titoli. Di alimentari, esatto. Allora, avete sentito la Santanchè, che è ritornata dopo le vacanze, com'è che ha detto, non so dove, chi a casa, lei al Twiga, almeno una parte delle vacanze, le ha fatte lì, è stata anche fotografata insieme a Sallusti. La mutilazione della democrazia, il falco, è bastato però che le aziende di Berlusconi, secondo qualcuno, andassero giù in borsa per fermare i falchi. Vedremo se i falchi sono stati fermati oppure no. Intanto avete sentito, avete riconosciuto anche la colomba Scilipoti, lui dice un falco responsabile. Sentiamolo a proposito di questo, della fedeltà. La fedeltà, dice Scilipoti, ve lo ricordate Scilipoti? Ce lo ricordiamo. Tutto il casino che ha fatto. Come? La fedeltà è dei cani. Fedeltà che significa? Fedeltà ai cani, il cane ha fedeltà, cioè dire credenza a un partito che ti ha eletto, è giusto che ci sia, il dibattito e il dialogo all'interno del partito è sale della democrazia, ma questo non significa che uno all'interno del proprio partito non possa esprimere una posizione diversa da quella che esprimono gli altri. Scilipoti, il responsabile per eccellenza, che adesso viene indicato sui giornali, ma lui stesso lo ammette, tra quelli che potrebbero sostenere una maggioranza diversa, senza il PDL, ma con nuovi responsabili a sostegno di un Letta bis. Ma, dicevamo, l'argomentazione sulle aziende di Berlusconi, che in questo momento potrebbero contare, forse anche più della politica, così Mieli. Da quando Letta è in carica, Mediaset ha guadagnato 1 miliardo e 400 milioni. Oggi in 4 ore ha perso 150 milioni, ampiamente compensati per quello strano circolo virtuoso, questa è una parte virtuosa, lo dico per scherzo ovviamente, del conflitto di interessi, per cui la stabilità ha fatto crescere Mediaset, i titoli Mediaset, dell'80% in 4 mesi, mentre la borsa cresceva di 10%. Responsabilità significa questo, non significa responsabilità che c'è una strada che porta al precipizio e tu per essere fedele, come qualcuno dice, allora te ne devi andare all'interno del precipizio. Cioè all'interno del precipizio non vado io, ma porto il paese Italia, porto i miei figli e porterei anche i figli dei miei avversari politici. Oh, c'è stata la lettera dei parlamentari del PD sul Monopoli, ve la ricordate, quella per sospendere certo. I Monopoli, ma c'è anche la diatriba interna alla Lega sul tiramisù. Ah, però. E questa è, sì, è dell'estate, ma sono anche le derive. I colpi di sole. Le diciamo. Implosioni, i colpi di sole della politica. Sentite Cota e Zaia che discutono su quale delle due regioni, il Piemonte o il Veneto, sia. Diciamo a quale delle due regioni sia da attribuire la paternità o la maternità, non ma so, quindi Lega. Il tiramisù. Lega, ah. Tutti e due. Il tiramisù, Lega. Esatto. E svegliamo finalmente questo arcano, ma il tiramisù è veneto o friulano? Secondo voi di chi è? Guardate, i savoiardi che vengono da quella zona lì, noi li produciamo da fine 1800. Sì, però i nostri sono più buoni, dai. No. Questo è poco ma sicuro. Però noi abbiamo avuto l'abilità di metterci il caffè, mascarpone e cacao. Volevo... Allora mangiamoci un tiramisù adesso. Vabbè, uno straordinario scontro al vertice, uno direi. Scontro veramente. Al vertice. Ci sta anche questo, insomma, siamo sicuri che Cota e Zaia sanno fare anche gli interessi dei piemontesi e dei veneti al di là e di queste tiramisù. Perdite di tempo. Era peggio la lettera sul Monopoli dei parlamentari del PD, secondo me. È una bella battaglia, ma perché vabbè. Quella ci hanno pensato, l'hanno scritta, l'hanno messa giù nero su bianco. Questo era un dibattito, sì, hanno fatto e poi era molto più Totò e Peppino, diciamo, degli italiani che scrivono all'ambasciatore americano di togliere, cioè di rimettere nel Monopoli la casella della prigione oppure di mettere, credo, gli arresti domiciliari. Però anche sul tiramisù c'è Zaia, vuol fare qualcosa, l'avevamo annunciato, e allora glielo chiediamo subito. Oscar Farinetti, ideatore e fondatore di Italy, buonasera intanto. Buonasera a voi. Di chi è l'origine del tiramisù? Indubbiamente veneto, per la precisione è nato in provincia di Vicenza, è la panna cotta che è piemontese. Il tiramisù è indubbiamente veneto, ma noi da Italy non lo chiamiamo tiramisù, come lo chiamiamo? Uno molto buono, ma lo chiamiamo tiratisù, nel senso che è un dolce proattivo, e cioè bisogna smetterla di aspettare che ci tirino su, dobbiamo tirarsi su da soli. Cioè anche nei nomi dei dolci e delle pietanze dobbiamo togliere ogni alibi. In Italia continuiamo a sperare che qualcuno ci tiri su, è arrivato il momento di rimboccarci le maniche, di smetterla di dire piove governo ladro e di tirarci su da soli. Quindi venite da Italy a mangiare il dolce originale veneto inventato a Vicenza, che tuttavia si chiama tiratisù proattivo anziché tiramisù. Però è fatto con la ricetta quella classica. Sì, noi lo facciamo, noi si, la nostra pasticceria si chiama Golosi di Salute, lo facciamo con metà zucchero, perché come sapete da Italy c'è metà zucchero e metà sale, dovunque. Più leggero. And now, the good news! Quando la star è al servizio della solidarietà. Se hai un amico che adora un VIP, regalagli un momento indimenticabile. Acquista per lui sul sito charitystars.com la maglia autografata o la cena con la star. Gli incassi andranno in beneficenza. Very important portafogli. Eccoci qua con Oscar Farinetti, creatore di Italy, che doveva aprire un negozio importante anche a Bari, doveva aprire il 31 luglio. Com'è andata? Come sta andando questa vicenda? L'abbiamo aperto, funziona benissimo, a proposito di traffico, è trafficatissimo, è una volta e mezza sopra il budget, facciamo 2000 coperti ogni sera, siamo contentissimi per due o tre motivi. Il primo, perché abbiamo sancito finalmente che anche un Italy al Sud può avere un ruolo, che il Sud è un territorio fantastico che risponde molto bene a questo. Bari si è dimostrata grandissima in questo. Secondo, perché i 176 lavoratori che abbiamo assunto, a questo punto possiamo dire che avranno il posto di lavoro certo, perché il negozio funziona, che i 280 produttori che abbiamo coinvolto del Sud Italia, perché come ben sapete gli Italy non sono tutti uguali, non sono cloni come Starbucks o come McDonald's o come IKEA. IKEA è già meglio, diciamo. Italy sono fratelli, cioè una base comune, ma poi i caratteri sono molto diversi, quindi l'Italy del Sud è dedicato al Levante, parla dell'agricoltura nel Mezzogiorno d'Italia. Siete tra l'altro all'interno degli spazi della... uno delle mission di Italy, una delle prime, il primo posto è ridare vita ai luoghi dimenticati d'Italia, cioè mattoni zero, ma andiamo a ristrutturare immobili fantastici, immemorabili, dimenticati. Quella è l'ala monumentale della Fiera del Levante, abbiamo riaperto le bifore, abbiamo investito 15 milioni di euro, ci crediamo moltissimo e ci siamo detti perché al Sud dobbiamo fare un Italy più piccolo, più povero. Abbiamo fatto un Italy fantastico, Italy dell'ultima generazione, siamo contentissimi di questo investimento e sta andando veramente alla grande. Quanti soldi ha investito? 15 milioni di euro? L'ho appena detto, circa 15 milioni di euro. Ecco, però c'è stato qualche problema prima dell'apertura, perché su questa questione dei lavoratori assunti Italy sta diventando una questione di Stato, ma questo fa molto piacere, perché è tutta pubblicità, tra l'altro. Se lo sentano un po' loro, no, mica per la pubblicità, noi guardi, l'ultimo dei problemi che degli obiettivi che abbiamo è far soldi, a noi interessa che Italy funzioni, che crei posti di lavoro. Quest'anno noi ci siamo dati come mission di assumere 1500 nuovi ragazzi, di creare 1500 posti di lavoro. Dopo Bari apriremo Firenze, ne apriremo due a Milano, un altro a Piacenza. All'estero stiamo aprendo Istanbul, Dubai e Chicago, non ci fermiamo. Quindi il primo obiettivo è quello. No, non abbiamo avuto problemi gravi, ci sono state delle polemiche abbastanza inutili. Polemiche dei sindacati sulla questione delle assunzioni attraverso un'agenzia interinale, no? Ma vede, appena riuscirò a parlare, i sindacati, c'è stato un grande misunderstanding, credo che appena mi vedranno capiranno, ma l'hanno già capito, in 5 minuti risolviamo il problema. Purtroppo si è verificato a Bari che non hanno potuto darci una licenza permanente, per cui ci è stata data una licenza temporanea, di mostra temporanea, e speriamo, noi confidiamo, siamo sicuri che in questi 6 mesi riusciremo a risolvere il problema tecnico-amministrativo di avere una licenza fissa, temporanea. Ci mancherebbe d'altro, finalmente al Sud arriva una roba del genere. Ma perché le hanno dato una licenza temporanea, visto che la concessione invece è più lunga, e poi avendo investito 15 milioni di euro, come si fa a dare una licenza temporanea? Si è verificato questo, che noi abbiamo aderito ad un bando della fiera, intelligentemente quella fiera ha deciso di dare vita a questo luogo dimenticato, lei sa che tutte le fiere in Italia sono un po' decadenti, insomma, il format tradizionale della fiera ne risente, non sta funzionando bene, quindi hanno deciso di incominciare, da prima con Italy, poi credo lo faranno con altri, degli scopi diversi a questi luoghi, e quindi è stato fatto un bando con scritto sopra mostra mercato permanente, e noi abbiamo aderito come mostra mercato permanente per stare lì 30 anni, e infatti abbiamo fatto un contratto d'affitto che costa anche, tra parentesi, perché non abbiamo solo ristrutturato, paghiamo anche un affitto importante, a differenza di altri luoghi dove invece ci hanno dato l'immobile a gratis, pur che lo restaurassimo e creassimo posti di lavoro. Per il sud abbiamo accettato anche questo, e dopo che abbiamo fatto questo contratto di 15, sì, 15, di 30 anni, ci è stato detto che c'è un problema tecnico e non si può più fare una mostra a mercato permanente. Dall'altra parte ci è stata data una garanzia non scritta ma verbale da molti uomini delle istituzioni di Bari che tengono il loro territorio in maniera importante. Noi abbiamo avuto degli scontri molto intelligenti sia da parte del sindaco Emiliano sia da parte di Nichi Vendola, presidente della regione, e quindi sta per incominciare un iter per cercare di dare una licenza fissa. A questo punto non si parlerà più di mostra mercato ma di licenza temporanea. Ma nel frattempo, sì, i maligni a proposito di Emiliano e Vendola dicono che sì, siccome anche lei è di sinistra, che lei ha assunto gli amici degli amici, è vero? Ma guardi, è una domanda talmente sulle vero, forse non doveva neanche chiedermelo, insomma, sa, gli amici, se noi diamo così, credito, così hanno scritto sì, se noi diamo credito a queste persone, sì, che nella vita non combinano niente, fanno i maligni e continuano a rompere le scatole a chi fa, sì, questo paese va veramente a rotoli. Ma si figuri se io vado a assumere la gente chiedendo se è di destra, di sinistra. Allora, io per regola non accetto raccomandazioni, l'ho mai fatto e non lo farò per tutta la vita. Se vogliono che uno non sia mai assunto da noi, basta raccomandarlo, non lo faremo mai, facciamo i nostri colloqui, cerchiamo di capire se sono persone che ragionano con la testa e con il cuore, e poi siccome in un colloquio tu riesci a capire se è una persona intelligente, riesci a capire se ragiona con la testa e il cuore, ma non puoi capire se ha voglia di lavorare, dopodiché li assumiamo un po' a tempo determinato e dopo pochi mesi, quando abbiamo capito che sono persone valide, li passiamo a tempo indeterminato. Perché di lavoro in questo momento in Italia ce n'è poco, c'è tanta gente che ha tanta voglia di lavorare e non lo trova, e io dico che dare un posto di lavoro a un raccomandato piuttosto che uno che non c'è voglia di lavorare è anche un'ingiustizia verso chi ha voglia di lavorare e non ha il posto di lavoro. Quindi quel problema lì proprio non esiste, non do neanche risposta. Senta, ma a parte ci sono un po' di... Io avevo annunciato agli ascoltatori se volevano fare delle domande a lei tramite noi, ma più che altro chiedono di lavorare con lei. Sta arrivando un sacco di gente che si propone. In generale. Sì, ma anche di lavorare con lei, gente che si propone in questo campo qua. Questo mi fa piacere. Quest'estate è stata un po' anche l'estate delle aziende che hanno approfittato in alcuni casi delle ferie d'agosto per andarsene, per traslocare all'estero. È successo, non so se ha letto qualche articolo, un'azienda in provincia di Modena, un'altra a Bologna, Forlì, adesso anche in provincia di Milano, aziende che dopo Ferragosto i lavoratori sono arrivati e hanno trovato tutto chiuso e avevano traslocato magari in Polonia o all'estero dove le condizioni di lavoro, dicono gli imprenditori, sono migliori. Che effetto le fa questa cosa a lei? Mi fa un effetto molto brutto, dirompente, penso che siamo vicino alla fine, cose di questo tipo. La classe imprenditoriale italiana è mediamente buona, è quella che ha tenuto su questo paese, ma all'interno di questa classe ci sono anche delle persone che non hanno coraggio e che si rassegnano. Invece non bisogna rassegnarsi. È lampante che se lei leggesse la lettera che ci hanno scritto i sindacati, che probabilmente non sapevano di questa roba della licenza temporanea e ci hanno addirittura accusati di creare un tempio dell'illegalità, vedesse che linguaggio medievale, di fronte a queste cose ti viene voglia di smettere di intraprendere. Dici, quindi lei questi imprenditori... Un culo così e poi ti trovi dei sindacalisti che ti trattano in questa maniera. Ti viene voglia di andare via, io lo capisco. Però vi annuncio ufficialmente che io non lo farò mai, manterrò questo livello di coraggio, starò in Italia tutta la vita, sì, e combatterò con tutte le mie forze. Questo sembra quasi una minaccia. Tutti i corporativismi, sì, perché il problema del corporativismo è quello che sta ammazzando il nostro paese. Però quindi, ecco, quindi da quello che dice, no? Cioè io noi abbiamo parlato anche con uno dei titolari di questa azienda, lui ha detto: io me ne sono andato via di notte a Ferragosto perché se fossi rimasto avrei dovuto intraprendere una trattativa con questi sindacati, come dice lei, che mi avrebbe sfinito e non avrei potuto fare quello che voglio. Quindi ha fatto male, non doveva andarsene, doveva iniziare la trattativa e liquidarla in mezza giornata, perché si fa così, perché non bisogna più perdere tempo intorno ai tavoli, bisogna lavorare. In questo è un paese dove adesso stiamo ragionando sull'IMU, sulla cassa integrazione, non c'è nessuna approvazione, ragioniamo su come raddoppiare il numero dei turisti in Italia, ragioniamo su come raddoppiare le esportazioni dell'agroalimentare, vi giuro, cito solo questi due temi perché sono quelli che conosco bene, che si può fare in 2-3 anni di lavoro. Se invece ci fermiamo a parlare solo di tamponi, se ci fermiamo intorno a dei tavoli a lanciarsi delle accuse, con questo cinismo, con queste malignità che si stanno trasmettendo da Roma come delle marionette fino a noi in provincia, non combiniamo niente. Io rifiuto di partecipare a questi tavoli del cavolo perché ho bisogno di lavorare, quindi con i sindacati in tre minuti, tre, siccome saranno delle persone intelligenti, capiranno che di fronte ad una licenza temporanea, in teoria io tra sei mesi chiudo e non posso assumere che non in quella maniera lì, e gli assicurerò come è giusto, e in questo hanno ragione, che non appena ho la licenza li assumo tutti regolarmente, direttamente come Italia, ci mancherebbe altro, come facciamo negli altri posti, quel problema lì è chiuso, dopodiché ciascuno di noi torna a lavorare, io lavoro per creare nuovi posti di lavoro, con inventandomi delle cose nuove, i sindacati, secondo me il ruolo del sindacato dovrebbe essere molto più aperto, molto più rivolto a creare proazione, a cercare di creare nuovi posti di lavoro, non andare a rompere le scatole. Ma invece questo governo, questa situazione politica parlamentare, dove il dibattito ruota attorno o all'IMU, se va bene, oppure a Berlusconi, che effetto le fa? È una roba terribile, però credo che Letta stia dimostrando di comunque quel poco che riesce a fare, di farlo e di andare. Il suo giudizio è positivo su Letta? Sul governo? Io sono assolutamente positivo su Letta, che sta dimostrando di essere un'ottima persona. Non è, secondo me, il massimo dei massimi. Forse Renzi sarebbe meglio. Lei sa che immagino io che andrebbe meglio. Il politico che sta dimostrando maggiore coraggio, maggiore voglia di cambiare, completamente rotta e di cambiare completamente sui ragionamamenti proprio. Ma varrebbe la pena a questo punto, se la situazione politica si impantanasse, andare alle elezioni e provare il centrosinistra a vincere, ma forse non solo il centrosinistra, con Renzi? Io dico questo, che l'Italia è un paese dove per vincere, anche in politica, devi farlo attraverso il senso del piacere e non solo il senso del dovere. Le due cose vanno mischiate. Purtroppo l'Italia è un paese di peccatori, siamo tutti un po' peccatori, dal parcheggio in doppia fila a cercare di evadere nel piccolo, nel grande le tasse, e quindi non vorrei che si rischiasse di votare di nuovo i peccatori, perché i peccatori votano volentieri un peccatore, è allucinante la situazione in cui siamo. Quindi secondo me, se per caso succede che nella sinistra italiana, che il PD lei sa ormai è l'unico partito, nel senso il partito che è rimasto, perché dall'altra parte c'è sostanzialmente un'azienda, una ditta, una roba diversa, sentivo prima i ragionamenti sull'andamento della borsa, è incredibile ragionare di queste cose, no? L'andamento della borsa in base alle scelte politiche dell'azienda, dell'ex presidente, è una roba allucinante. Lei prova a immaginare un americano. Questo è quello che diceva Mieli, però. Sì, sì. Lei prova a immaginare un americano, sì, un inglese, un tedesco che sente queste cose, non riesce neanche a capirle, non riesce proprio a comprenderle. Allora le dicevo, se per caso nella sinistra, che dove c'è un partito, c'è una persona che è considerata sveglia come lui, furba come lui, veloce come lui, figo come lui, ma magari è molto più giovane, e poi magari è anche una persona onesta per bene, che ha voglia di fare e ha un'ambizione sana, che non è da protagonismo assoluto. Questo è Renzi. Se per caso c'è, sarebbe un atto di masochismo puro non metterlo come leader, non metterlo in pista. Mi sarà la follia, insomma. Dopodiché, sì, io sono un assertore. In 30 secondi, perché dobbiamo chiudere? Un assertore, Matteo lo sa, di un grande accordo tra Letta e Renzi, che queste due persone possono essere veramente quelli che possono guidare il centrosinistra in maniera moderata e sana per il futuro. Va bene, grazie Oscar Farinetti, saluto, buona serata. And now, the good news! Dagli scarti al mondo. Anzi, dalle eccedenze di lana, latte, formaggio, olio, alla produzione di intonaci, vernici, isolanti, barche venduti in tutto il globo. È la felice storia della rete di imprese che fa capo a Edilana di Daniela Ducato. Lei ha inventato una filiera sostenibile dove non si butta via niente. Eccoci qua, intanto un po' di commenti, un po' di sms al 349-238-6666 sulla intervista di Farinetti. uno che lo attacca, uno solo, a dire la verità, avete offerto uno spot a Farinetti, io sono un suo fornitore, ho dovuto chiudere altrimenti sarei fallito, non si capisce bene perché, se ce lo vuole spiegare questo ascoltatore. E poi invece gente che ci dice che è bello ascoltare Farinetti, grazie Radio 24, ho una piccolissima attività, questo ascoltatore dice addirittura pagherei per passare un pomeriggio con Oscar Farinetti, che in effetti regala un sacco di punti di vista. Ma soprattutto diciamo che camminando con lui si può andare a mangiare a ogni angolo di strada, immagino, quindi e mangiar bene, credo. Certo. Sì, sì, sì. È bello anche la cosa che ha detto, che è un paese di peccatori questo, perché direi che è anche un po' il suo core business, perché poi i peccatori in realtà mangiano, sono diciamo, quelli che entrano a Italy senza remore, esatto. E quelli di gola diciamo se ne occupa però lui, però ha detto metà zucchero e metà sale, ma quello non ho capito in generale, nel senso, ma non diceva nel tiramisù, nel senso che nel tiramisù mette metà zucchero ovunque, metà sale, metà zucchero metà sale perché fa meno male, ho capito, ma metà sale al posto di metà zucchero nel tiramisù è terribile, un tiramisù terribile, no, forse ho capito male io, ma non credo che sia così. Giuseppe dalla provincia di Varese, buonasera. Sì, pronto. Prego, buonasera. Giuseppe, tocca a lei. Allora, buonasera. Io ho chiamato per parlare appunto dello zoo, cioè purtroppo pitonesse, falchi, colombe, giaguari, insomma, più che un parlamento sembra uno zoo. Però prima volevo fare una piccolissima e velocissima digressione. Io avevo sentito che un mese e mezzo fa, che il buon Cruciani, con il suo cameriere Parenzo, se ne andava a Radio Monte Carlo. Voi sapete qualcosa? È possibile che succeda questo miracolo? No, guardi, non sappiamo. Noi sappiamo che torna. Che tra una settimana, tra quattro giorni, noi smettiamo di fare Si può fare estate. E quindi torna Cruciani e Parenzo. Peccato, perché io una volta ho chiamato Cruciani dicendogli che lui a Monte Carlo andava benissimo, però prendendosi Leone lì, Lernia, comunque poteva fare una trasmissione. Vabbè, migliore. Giuseppe, deve chiamare Cruciani, forse. Sì, sì. No, questo comunque lo trova settimana prossima, qui è sempre lo stesso numero. La stessa ora. Nel senso che a me non va bene come imposto. Va bene, tra sette giorni richiami e rispondono loro. Grazie, buona serata. Daniele da Verona, prego. Buonasera, io volevo dire due cose soltanto, sì, sulla querella Berlusconi. Intanto approvo tutto quello che è stato detto prima di me, è giustissimo, i parlamentari devono avere un po' più di coraggio. Sulla querella di Berlusconi invece dico soltanto una cosa, nessuno dei suoi assertori ha mai detto è innocente, hanno attaccato i giudici, ha 9 milioni di voti, perciò è giusto che non venga condannato, ha fatto il G8, ieri la Gelmini diceva ha partecipato al G8, allora io penso che una persona come Dario Fo ha vinto il Nobel ha tutto il diritto di ammazzare la gente per strada. Io penso che l'unica cosa che dovevano dire, e probabilmente non sono certi di questo, che è innocente. Che lo difendano perché è innocente. L'ha detto lui in via del plebiscito. L'unico che l'ha detto è lui, ma tutti i suoi diciamo cortigiani, nessuno l'ha detto, perciò vuol dire che lo difendono a spada tratta per un partito preso. Cioè lei dice sarebbe diverso se dicessero è innocente, ecco, quindi se ci crediamo, sì, alla sua innocenza, perciò la gente deve cominciare a aprire un po' gli occhi e capire che è inutile che andiamo avanti in un momento così particolare, come giusto diceva il signore di prima, un momento in cui bisogna avere del coraggio, darsi da fare per l'economia, continuare a parlare di una persona che può anche darsi sia stata condannata ingiustamente. La Repubblica Italiana prevede un modo per giudicare le persone, le giudicano i giudici, che se anche vengono considerati dei burocrati dello Stato, grazie al cielo sono burocrati dello Stato, perché tanti giudici hanno perso anche la pelle per essere burocrati dello Stato. Alcuni parlamentari non hanno ancora capito che loro sono dipendenti statali perché vengono pagati da noi, ma pensano di essere unti dal Signore. Perciò finiamola con questa querelle, se va deve bene andare come deve andare e basta. Grazie. Quindi, Daniele, grazie. Buonasera. Modesto ci chiama dalla provincia di Caltanissetta. Salve, buonasera a tutti. Buonasera. Io non posso fare a meno che riallacciarmi a quello che ha detto l'ascoltatore prima di me. Sì. Da uomo qualunque, veramente, dico, non so, cioè, l'uomo della strada non può verificare niente, cioè, un punto fermo ci deve essere. Se i tre gradi di giudizio hanno riportato che questa persona è colpevole e basta. Sì. Ma guardi, perché lei ha ragione, perché la mutilazione della democrazia che dice la Santanchè riguarda il fatto di Berlusconi leader, però ci sarebbe un'altra mutilazione della democrazia se la sentenza di terzo grado, che in Italia è l'unica fosse in qualche modo sovvertita, cosa che poi non sarà, perché non credo che si vada incontro a una rivoluzione. Attenzione, però, io parlo da elettore di centrodestra. Ventennale, da sempre, praticamente, dal 93, si è fatta salva l'ultima elezione e non se ne può più di questo. Io quasi inviterei, anche se un paradosso, cioè quando uno sente parlare sui giornali, in televisione, alla radio di questo argomento, di cambiare canale, perché veramente non. Ma parla di Berlusconi come argomento? Sì, di Berlusconi, anche se è assurdo perché ne sto parlando io, giusto? Però veramente. No, ma era per capire. Non se ne può più, anche perché io vedo intorno a me, ripeto, da uomo qualunque, tantissimi problemi, grandi e piccoli, e nessuno fa niente per risolvere, sono sotto gli occhi di tutti. Va bene, Modesto, grazie. Noi abbiamo cominciato con un'intervista su un altro argomento, quindi da parte nostra ci proviamo. Gianluigi da Treviso, buonasera. Sì, buonasera. Eccomi. Prego. Io avevo chiesto di intervenire per quanto riguarda l'aspetto del tiramisù. Ecco. Lei chiama da Treviso e scommetto che vuole rivendicare l'origine del tiramisù. Ecco, questa cosa qua non avrei voluto farla perché è sempre da campanilismo. E non vuole essere questo, solamente una precisazione per quanto riguarda la realtà storica, diciamo così. Non so, il signore che ha citato prima, Vicenza, su che base lui dà questa origine. Il signore prima è Oscar Farinetti. Certo, pieno rispetto per quello che dice lui. No, ma non è che sia il Papa. No, ma glielo dicevamo semplicemente. Non era il Papa che parlava diciamo, del catechismo. Oscar Farinetti è un imprenditore del settore dell'alimentare, ma prima faceva dell'altro, tra l'altro, aveva l'Unieuro, vendeva elettrodomestici. Potremmo chiedergli un parere sull'ultimo iPad. Beh, ma ci dica invece, quindi non è di Vicenza, secondo lei, il tiramisù invece è di? Ma io trovo che Maffioli cita le origini del tiramisù a Treviso. Anch'io devo dire che avevo letto Treviso, devo dire che nella mia altissima ignoranza in materia avevo letto anch'io Treviso, però vabbè. Il socio si chiama Tiramisù, sì. Era appunto un ristorante in centro a Treviso che ha dato origine. Ma del resto ci sono anche più lettere diciamo che combaciano fra Treviso e Tiramisù e invece Vicenza e Tiramisù. Sì, anagramma. Esatto. Anagrammista Gabardini. Del resto l'Italia è piena di tradizioni che si incrociano, non lo sapremo mai. Speriamo che richiami Farinetti, perché mi sembrava molto preparato Farinetti come risposta. Guardi, comunque questo lo trovo su un libro di ricette di Giuseppe Maffioli, ne cito un attimo la persona. Perfetto. Poi non so lui appunto su come dava lui l'origine di questo tiramisù in Vicenza, ma ripeto, non ne faccio una questione campanilistica, ma solo di memoria storica delle cose. Grazie mille. Buona serata. And now, the good news! Loro sono due giovani imprenditrici toscane e fanno le t-shirt con la fibra di latte. Una stoffa particolarmente pregiata e raffinata. Due di latte si chiamano. Peccato che il filato debbano comprarlo in Germania, perché da noi non si fa più. Due di picche. C'è un'altra domanda postuma per Farinetti, postuma perché ormai Farinetti non c'è più, non è più tra noi, è di un ascoltatore che dice: chiedeteli dove ha preso i soldi per fare tutte queste start-up. Presto detto, vendendo l'Unieuro, di cui era proprietario, e credo che abbia incassato svariati milioni di euro che ha investito in quest'altro progetto. E per qua. Precisazione direi anche che è ovvio che intendesse che dove mette lo zucchero ne mette la metà e dove mette il sale ne mette la metà. Era un gioco prima quando dicevamo la metà di zucchero che non mette, mette sale. Turi da Catania, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a voi. Prego. E allora, non entro in discorso da dove ha preso i soldi Farinetti perché non mi interessa, cioè il discorso. Cioè no, ma infatti non c'è da interessarsi, l'ha preso in quel modo lì. È più interessante dove prende i pinoli. No, allora, il discorso è un altro, perché allora avete detto gli altri perché lui sa dove andare a pranzare, a cenare, perché si mangia bene. Sì. Io ho dei dubbi. Allora, io sono del settore agroalimentare, che ho visto al negozio di Torino dei prodotti alquanto discutibili, con dei costi abbastanza grossi. L'ho portato diverse volte, ma non per un discorso di faziosità, dico il mio prodotto è migliore dell'altro. No, allora, ho visto determinate, dico, sughi, No, c'erano dei conservanti, dei coloranti spacciati per buoni. Ma sta parlando di Italy, dice esistono dei sughi di Italy con dei conservanti. Beh, conservanti, non lo so, adesso se vogliamo parlare di questo, però ci sono da tutte le parti. Non è che... No, ma allora che è un discorso di qualità, allora abbiamo la prosopopea di dire il mio è il migliore, no. Ah, un discorso di distribuzione di cibi italiani a chilometro zero e di qualità, non lo so, questo poi... Allora, ok, perfetto. Allora, lasciamolo giudicare a tutti, anche a lei. Bene. Va bene, Turi, ma si è chiamato per questo o anche per qualcos'altro? No, per questo qua, allora, non mi permetto. Se il discorso dei soldi delle prese sono fatti suoi. No, perché non è che possiamo addentrarci più di tanto nella questione. Nel senso che ha ragione, lei dice dov'è la qualità, cioè, qual è la qualità? Ci chiamava prima, gli facciamo la domanda. Io che ne so, non conosco questa etichetta che lei ha visto dove c'era un conservante dentro in un sugo, che probabilmente lei c'ha ragione. Io avevo fatto l'appello agli ascoltatori a farci delle domande per Farinetti, gli potevamo chiedere di questa cosa, qual è la qualità dei suoi prodotti. Comunque, sarà per la prossima. Grazie, Turi. Sotto la formula aromi naturali si racchiude tutto. Va bene, questo però vale proprio in generale. Certo. È una vecchia storia. Grazie, buona serata. Adesso invece vogliamo fare il punto su un'altra notizia dell'estate, che è la raccolta delle firme per fare un referendum per abolire una parte della legge Merlin, quella che vieta le case chiuse, cioè riapriamole. Sono alcuni sindaci, il capofila è Giovanni Azzolini, conosciuto agli ascoltatori di Radio 24, che l'abbiamo sentito anche altre volte, sindaco di Mogliano Veneto in provincia di Treviso. Buonasera. Buonasera Alessio, salve a tutti. Buonasera. Treviso, qui la patria del tiramisù, tra l'altro. Non so se ha sentito che abbiamo avuto... Oddio, c'è un po' di conflitto, però insomma sì, noi siamo orgogliosi insomma di essere gli inventori del tiramisù, perlomeno in Veneto. Però diciamo. Siete voi o siete Vicenza? Farinetti ha detto Vicenza, però. Diciamo che noi siamo orgogliosi per Treviso, noi siamo Mogliano, siamo in provincia di Treviso, anche se siamo a un passo da Venezia, 041 prefisso telefonico, provincia di Treviso, una cosa un po' strana, ecco, una via di mezzo. Siete un po' a cavallo tra le due perfetto. Cose. Quindi siete proprio voi forse che l'avete inventato, evidentemente. Ecco, diciamo di sì, che diciamo possiamo anche competere anche noi su questa cosa, ci proviamo, non sappiamo dove, ma competiamo. Insomma. Il tiramisù è di Mogliano, quindi. Ecco, va bene. Magari. Terra libidinosa. Terra libidinosa perché siete la terra del tiramisù e anche la terra dove volete dare una casa alle prostitute. Dal tiramisù al tiramisù. Ecco, il dato di al fatto sesso è a pagamento. Appunto, non so tiramisù cosa, però in realtà sul terraglio la sera che la strada che congiunge Venezia a Treviso è pieno di prostitute e noi vogliamo togliere dalla strada e per appunto metterle in quelli che si chiamano i luoghi di tolleranza, in quartieri di tolleranza. Per fare questo dobbiamo abrogare... Però non è una bella espressione i luoghi di tolleranza, perché sembra una cosa... così tollerata ma un po' negativa. Le case di tolleranza sì. Chiamatele un po' è un vecchio nome, volete, insomma, chiamatele come volete, insomma, c'è chi li chiama case chiuse, chi li chiamava bordelli, chi li chiamava alberghi per le prostitute, chi è normale. Perché se siamo locali... Treviso chiamiamo le case del tiramisù, direi, no? Perché una delle critiche che vi fanno, per esempio, le prostitute organizzate nel sindacato, come Pia Covre, per esempio, dice che questa idea vostra è un'idea vecchia, ecco perché mi è venuta in mente casa di tolleranza, che è una vecchia espressione. Cioè, non l'avete al vostro fianco il sindacato? Non abbiamo Pia Covre, che è un'ex prostituta, al nostro fianco perché ha fatto una sua scelta, ma abbiamo al nostro fianco la stragrande maggioranza delle donne e anche tantissime lavoratrici, insomma, che in questo... Lavoratrici in questo campo. Di che tipo? Beh, insomma, di questo campo. Avete al vostro fianco anche le prostitute, volevate dirci? Avete al vostro fianco anche le prostitute? Beh, certo, perché è provato anche recentemente, insomma, abbiamo fatto in questi giorni delle retate che sulla strada sono più sfruttate che in casa. Ma stanno firmando quindi la vostra proposta? Credo di sì, ne hanno firmato adesso pubblicamente, ancora no, ma stanno firmando tantissime cittadine. Una cosa bella è che tantissime invece sono le donne che ai banchetti vengono a firmare, sono molte, un po' perché sono esasperate dal fenomeno, un po' perché credo che finalmente siamo arrivati a un periodo di maturità della nostra Italia, che si possa affrontare questo problema senza ipocrisia, senza voltare lo sguardo dall'altra parte. Quante firme avete raccolto però? Perché... Siamo vicino ai 100.000 adesso, siamo partiti in sordina, dobbiamo raggiungere 500.000, sembra un'operazione difficile, ma credo che non sia impossibile. E quante sono le città che si sono schierate? Guarda, macchie di leopardo un po' in tutta Italia, cominciando dai comuni più piccoli. L'altro giorno ero a Montesilvano in Abruzzo, che sono 50.000 abitanti, che ha aderito a questa iniziativa tantissimi comuni del Veneto, altri comuni di un po' di tutta Italia. Ecco, i grandi comuni fanno un po' fatica, fa sorridere per esempio che Genova, un po' genovesi, ho mandato a loro il modulo via email per stamparlo, mi hanno detto che non hanno i soldi per le fotocopie e quindi ho dovuto mandare un pacco di moduli via posta. Spero che sia cominciato anche a Genova la raccolta, perché tantissimi cittadini mi chiamano anche da lì. Cosa prevede esattamente la vostra proposta di referendum? Beh, la nostra proposta prevede di abrogare in parte la legge Merlin. Quali parti? Quelle che prevedono, che impediscono l'apertura dei luoghi che abbiamo chiamato prima di tolleranza, perché così li chiama la legge, che impediscono la gestione di alberghi con all'interno prostitute o quartieri in cui si esercita la prostituzione. Prevediamo anche di abrogare quale parte della legge? Quella che impedisce di registrare le prostitute. È così. In Italia attualmente le prostitute sono senza registro e quindi non possono pagare per esempio la partita IVA, perché sulle loro prestazioni la legge Merlin impedisce di dare a loro. Quindi l'obiettivo è anche quello di fare come, all'estero, per esempio in Germania, dove sono iscritte appunto a un registro. Guardate, mi fa sorridere ultimamente ascoltare i dibattiti politici che dicono, che parlano insomma del recupero di 4 miliardi. Beh, insomma, tassando le prostitute i 4 miliardi arrivano immediatamente, è una prova dei numeri: 70.000 sono sulla strada, altrettante sono nelle case, i conti si fanno in fretta, è un gettito certo per lo Stato regolamentando il fenomeno. Ma in una cosa, non chiediamo di abrogare il reato di sfruttamento, questo è chiaro, questo rimane. No, questo sì, questo sì, questo sarebbe, deve rimanere, è sarebbe paradossale, parte buona della legge, diciamo. Ma quindi in realtà quello che mi sto chiedendo, volendo abolire solamente la parte, cioè non la parte appunto della sfruttamento della prostituzione, a questo punto poi le prostitute che vanno in una casa chiusa, però ognuna con la propria partita IVA si autogestisce, sono tutte imprenditrici di loro stesse, nel senso che non possono. Certo, guardate, la cosa anomala in Italia adesso, che non è reato prostituirsi, no, ci si può prostituire, certo. Però non si può pagare, le prostitute non pagano le tasse perché la legge praticamente sì, è una specie di buco nero, è una specie di buco, è buco nero, no, no, nero. L'ha detto no, Alessio, è d'altra parte, è così, è l'altro della legge, perché la mi su al buco nero, direi stasera mi vuoi trascinare. È una zona d'ombra, diciamo così, della legislazione, perché le prostitute la prostituzione non è reato, ma loro non sono riconosciute. Voi volete fare questo, cioè farle. Certo, vogliamo far emergere tutto il sommerso e quindi dare a loro una partita IVA, iscrivere in albi professionali veri e propri, perché per esempio non è possibile neanche richiedere a loro un controllo sanitario. Se io e te o qualcun altro vogliamo fare attività fisica, dobbiamo per forza chiedere il certificato di sana e robusta costituzione. Ecco, alle prostitute non dico questo, ma non si può, perché la legge Merlin impedisce fare alcun o richiedere alcun controllo sanitario, né sanitario né fiscale. Mi sembra un po' ingiusto e anche anacronistico. Noi chiediamo proprio questo e chiediamo anche di non mettere in galera chi affitta un appartamento o l'albergatore che gestisce un albergo e dà in affitto alle prostitute questi spazi. Perché quello oggi sarebbe sfruttamento della prostituzione, giusto? Sì, però che differenza c'è fra sfruttamento e chi lo fa è un imprenditore. L'imprenditore non sfrutta il proprio dipendente, ma dà un'opportunità di lavoro. Ecco, abrogando la legge si mantiene il reato di sfruttamento, ma lo si applica solamente a chi veramente esercita violenza o altri atti per portare a casa un guadagno. Ah, certo, qua l'imprenditore affitta un appartamento piuttosto che un luogo organizzato con tanto di piscine, quello che volete, ecco, certo non commette un reato magari, anzi costruisce un luogo sicuro in cui le prostitute che comunque Azzolini il comitato per i diritti delle prostitute dice che è una cosa un poco seria, però poi dice aspettiamo che arrivino a 250.000 firme, quindi tutto sommato stanno a vedere, perché magari se superate questo scoglio e le firme le trovate, può darsi che questo movimento cresca. Intanto grazie, buona serata. Una sola battuta veloce, velocissima. Hanno aderito per esempio anche altre associazioni quali la Lega Disabili Italiana, ecco, che loro sono con noi perché loro, la legge Merlin vieta loro di avere la cosiddetta assistente sessuale, che è quella che gli permette di raggiungere traguardi che da soli non possono raggiungere. Grazie anche per questa precisazione. And now, the good news! Alimentare gli autobus con l'immondizia. È il sogno che a Verbania vogliono a tutti i costi che diventi realtà. Per questo stanno provando a fare biodiesel dai rifiuti. La parte organica riscaldata produce un olio che può essere impiegato come carburante. Pronti ad andare a tutta immondizia? Allora, andiamo avanti con i titoli, adesso TG3. Escalation sulla Siria, per le TV americane l'attacco ad Assad è imminente, no della Russia, Washington, Obama non ha ancora deciso, la Bonino, l'Italia è solo con loro. Si cerca l'accordo sull'IMU, positivo l'incontro Alfano-Saccomanni, ma c'è lo stop del PD, no agli ultimatum, le nostre priorità sono IVA, scuola, cassa integrazione. Alto là dei comuni a Letta, non possiamo pagare ancora una volta noi il conto dell'abolizione della tassa e dovete garantirci le risorse del 2012. I venti di guerra sulla Siria e le fibrillazioni della politica frenano ancora le borse. Milano giù, torna a crescere lo spread, salgono i tassi dei titoli. Ora Berlusconi teme che un gruppetto di senatori possa votare un'eventuale Letta bis. Torna in scena Scilipoti e nei 5 Stelle duro monito ai dissidenti. Epifani, il governo non rischia se fa le cose per bene. Non stiamo valutando nuove maggioranze. Zanda, nessuna apertura sulla decadenza del Cavaliere. E a settembre i test di ammissione per le università a numero chiuso. A medicina 7 su 8 resteranno fuori. E così molti pensano di andare all'estero. Marfalco va, senza catene, fuggia gli sguardi. Sa che conviene, è indifferente, sorvola già tutte le accuse, boschi e città. E devo dire da donna, le donne italiane, cari amiche, se c'è veramente un voto inutile è quello a Silvio Berlusconi, perché ci ha sempre visto orizzontali, perché ancora l'altro giorno alla sua convention prima vi ha chiamato padrone e domina e poi subito dopo ha detto dovrete cucinare le crostate, rappresentanti di lista. Io vorrei dire a Berlusconi questa volta di stare attento, perché forse le italiane cucineranno lui. Questo era il 2008 e questa era Daniela Santanchè, per quanti se lo ricordano, è stato un ripasso, per chi se l'era dimenticato siamo andati a ripescare questo audio anti-berlusconiano del falco più falco che ci sia adesso tra i berlusconiani, così giusto per schiarirci un po' la memoria. Certo. La pitonessa, il falco Santanchè, che in queste ore sembra interpretare più da vicino il pensiero di Berlusconi, secondo il retroscena, secondo quello che leggiamo sui giornali, perché sono cose che non si dicono ad alta voce, e questo è quello che lei, la vogliamo risentire, risentiamo. È più berlusconiana di Berlusconi, direi. Sì, però questo era il 2008. E devo dire da donna, le donne italiane, care amiche, se c'è veramente un voto inutile è quello a Silvio Berlusconi, perché ci ha sempre visto orizzontali, perché ancora l'altro giorno alla sua convention prima vi ha chiamato padrone e domina e poi subito dopo ha detto dovrete cucinare le crostate, rappresentanti di lista. Io vorrei dire a Berlusconi questa volta di stare attento, perché forse le italiane cucineranno lui. Per dire, c'è gente che l'aveva votata nel 2008 perché lei era anti-berlusconiana, sono passati 5 anni. Anzi, si proponeva come leader della destra, sì, giusto? esattamente, in questa chiave qua. Veniamo all'oggi, al dibattito tra Falchi e Colombe. Allora, sentiamola una colomba, Scilipoti, il responsabile più responsabile che ci sia, che dice la fedeltà è dei cani, per esempio. Lui quindi dice io non ho alcuna intenzione di essere... fedele a chi? A Berlusconi in questo caso, e quindi non vuol rinunciare a sostenere per esempio un Letta bis qualora prevalessero le tesi della Santanchè. Fedeltà che significa? Fedeltà, la fedeltà ai cani, il cane ha fedeltà, cioè dire pensa a un partito che ti ha eletto, è giusto che ci sia, il dibattito e il dialogo all'interno del partito è sale della democrazia, ma questo non significa che uno all'interno del proprio partito non possa esprimere una posizione diversa da quella che esprimono gli altri. Boschi e città, io Responsabilità significa questo, non significa responsabilità che c'è una strada che porta al precipizio e tu per essere fedele, come qualcuno dice, allora te ne devi andare all'interno del precipizio. Cioè all'interno del precipizio non vado io, ma porto il paese Italia, porto i miei figli e porterei anche i figli dei miei avversari politici. E questo è Scilipoti, insomma i giornali stanno riempiendo le caselle di quei 5, 6, 7, 8, 10 parlamentari come Scilipoti, ieri abbiamo sentito Naccarato, fanno la conta, che potrebbero in qualche modo cambiare posizione rispetto alla posizione dominante nel PDL, che attualmente è quella di dire se si rompe sulla questione Berlusconi si va ad elezioni e non c'è spazio per altri governi. Invece Letta, alcuni dicono, è molto tranquillo perché stanno già facendo i conti su chi potrebbe correre in soccorso. C'è poi un altro argomento, che è quello delle aziende di Berlusconi, che in questi anni, in questi mesi di Letta sono andate bene. Appena si è cominciato a parlare di crisi c'è stato un meno 6% in borsa. Questo potrebbe essere un argomento che spingerebbe, un po' come nel 2011 sulla falsa riga di quanto è successo quando arrivò Monti, Berlusconi a fare un passo indietro. A dirlo chiaramente Paolo Mieli. Da quando Letta è in carica, Mediaset ha guadagnato 1 miliardo e 400 milioni, oggi in 4 ore ha perso 150 milioni, ampiamente compensati per quello strano circolo virtuoso, questa è una parte virtuosa, lo dico per scherzo ovviamente, del conflitto di interessi, per cui la stabilità ha fatto crescere Mediaset, i titoli Mediaset, dell'80% in 4 mesi, mentre la borsa cresceva di 10%. E svegliamo finalmente questo arcano, ma il tiramisù è veneto o friulano? Secondo voi di chi è? Guardate, i savoiardi che vengono da quella zona lì, noi li produciamo da fine 1800. Sì, però i nostri sono più buoni, dai. No. Questo è poco ma sicuro, però noi abbiamo avuto l'abilità di metterci il caffè, mascarpone e cacao. Volevo... Allora mangiamoci un tiramisù adesso. Cota, il presidente del Piemonte, e Zaia, il presidente del Veneto, che duettano sulle origini del tiramisù. E tra l'altro la questione è totalmente aperta, perché è totalmente aperta anche ai nostri ascoltatori. Esatto. 800 24 00 24, fra l'altro noi l'abbiamo paragonata alla lettera dei parlamentari del PD sul Monopoli. Sì. La lettera all'ambasciatore degli Stati Uniti, ritiri il Monopoli, no? E poi siamo sullo stesso livello, però io ho detto è peggio quella dei parlamentari del PD, perché almeno ho dovuto scriverla qua. Zaia e Cota stavano discutendo tranquillamente in una festa estiva, gli è venuta fuori questa cosa qua. E comunque anche noi abbiamo avuto Farinetti che dava per certo che il tiramisù fosse di Vicenza, e poi il sindaco Azzolini di Mogliano in provincia di Treviso, che diceva no, è di Treviso. Il sindaco Azzolini, che tra l'altro a proposito di tiramisù lancia un'altra battaglia, che è quella contro le case chiuse. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vogliamo la vostra opinione, il referendum per riaprirle. Ci sono in prima linea i sindaci di Montesilvano, a Pescara, Calalzo, Belluno, e poi ci sono anche altri, insomma, e anche il nostro sindaco che avevamo sentito, quello che voleva replicare i box di Zurigo, era quello di Montesilvano. Ah, Montesilvano, sì, giusto, sì. Scusami. Attilio Di Mattia, e questa è un'altra questione. 800 24 00 24, tra poco. Adesso però è il momento del nostro punto di vista strambo. Stasera è una cosa che ti sorprenderà, Gabardini. Ah sì, sono in fibrillazione. E anche gli ascoltatori. Rullo di tamburi. Abbiamo convocato Gunther Reifer, membro del consiglio di amministrazione dell'economia del bene comune. Buonasera. Buonasera. L'economia del bene comune è un movimento che nasce dove? In Austria? Momento... a nascere a Vienna, in Austria. Sì, sì. Per sovvertire un po' le regole dell'economia, noi siamo partiti dai problemi che hanno le aziende italiane, in alcuni casi, a rimanere in Italia perché le regole per stare qua, oppure le vertenze con i sindacati, oppure la concorrenza straniera, tante cose fanno sì che se devono andare chiudono le aziende, ci sai, è un periodo difficile. Voi avete una visione dell'economia un po' diversa. Per esempio, ci spieghi intanto in qualche parola in cosa consiste questo movimento dell'economia del bene comune, Reifer? Beh, noi abbiamo una visione, vorremmo cambiare il sistema economico, vorremmo che le aziende non sono più solo legate al profitto, alla crescita, a tutto quanto. Noi vorremmo mettere in atto una nuova economia dove i valori che fanno bene, sì, a tutti noi sono al centro delle aziende. Ma non perché il profitto non va bene, però, perché ci sono anche altre cose. Beh, il profitto ci ha portato dove siamo adesso, diciamo il modello di concorrenza, di sempre differenziazione, di essere diverso dall'altro, di crescere e così via. Noi vorremmo che un'economia, abbiamo già centinaia di aziende che sono aderite a questo movimento, dove al centro non c'è il perseguimento del profitto, ma il perseguimento del bene comune, dove diciamo i valori che vorremmo vivere sono dentro nell'azienda, e dove non il profitto e la crescita è nel centro, ma dove diciamo il bene comune, la comunità è, sì, al centro di tutto. Però come si fa, per esempio, nel caso di aziende come quelle che dicevamo prima? Ci sono state quest'estate due o tre aziende che, siccome i profitti non c'erano più, e queste aziende per la concorrenza straniera o per altri motivi sono andate all'estero, dove costa di meno produrre. Voi che cosa avreste fatto al loro posto? Ma sì, ma ovviamente questo è un problema, diciamo, che parte già molto prima, diciamo qui secondo noi, sì, i problemi o i sbagli sono stati fatti anni fa, dove diciamo io mi sono messo a fare la concorrenza con aziende dove non ho la possibilità di essere competitivo. Noi vorremmo cambiare e vorremmo, sì, dare alle aziende un bilancio che misura quanto un'azienda fa per il bene comune, così che queste aziende poi vengono trattate in un certo senso anche meglio, dove diremo che anche dal punto di vista delle tasse queste, sì, sono trattate in un altro modo. Cioè se tu inquini aziende, di meno, per esempio, io ti tasso di meno. Appunto, che quelle aziende che già fanno tanto, non soltanto per il loro portafoglio, ma per la comunità, sì, ricevono un altro tasso, per esempio, di IVA e così via. Ma, cioè che, sì? Quante aziende siete, Reifer e Federati? Noi qua nel nord, diciamo, sì, in Alto siamo una trentina. 30 aziende che già sono aderite a questo. E cosa movimento comporta essere iscritti a questo movimento del bene comune? Noi abbiamo diciamo un'associazione dove puoi far parte dell'associazione. Poi vorremmo che le aziende fanno il cosiddetto bilancio del bene comune, dove 17 criteri misurano quanto un'azienda fa già per il bene comune, così che io posso far trasparente come azienda quanto io già faccio per la comunità. Come il bilancio fiscale che fa trasparente quanto utile. Ma quali sono questi criteri? Ecco, facciamo qualche esempio più concreto. Facciamo per esempio la qualità del posto di lavoro, oppure tutti gli acquisti. Ma io quando acquisto delle materie prime che mi servono per produrre, ma guardo solo al prezzo, ma o guardo anche all'etica, a fattori sociali e così via. Diciamo, entro in tutti i dettagli e mi prendo tutta la responsabilità dell'azienda che di cosa faccio, oppure anche marketing etico, che non dico non racconto palle ai consumatori, sì, no. Io, ma questa cosa, Reifer, costa di, sì, più a un'azienda, perché in tempi di crisi si lima su tutto, e come si fa? Costa di meno, perché io, soprattutto quando io cerco di rifare la mia azienda in questo percorso, anche la motivazione delle persone che lavorano in questo sistema, in questa azienda, diventa totalmente diversa. Sono molto più attenti a sprechi, a rifiuti, all'energia che viene sprecata. Diciamo, sono veramente dentro, perché diciamo, se le aziende sono più sensate, il senso di fare economia è più legato alle persone che sono all'interno dell'azienda, perciò la motivazione e anche l'innovazione aumenta, e aumenta anche soprattutto la cooperazione che io ho con altre aziende. È totalmente un altro approccio di compensare. E quali sono le, i tipi di aziende che fanno parte di questa cosa qua? Cioè, abbiamo tutto, da un'azienda di una persona fino a un'azienda di edile di 2000, con 2000 lavoratori. Abbiamo anche comuni, sì, di Valle Nostra, qua in Alto Adige, per esempio, quattro comuni hanno detto: noi vorremmo diventare comune dell'economia del bene comune, vorremmo poi fare una valle del bene comune. Ecco, ma all'estero, dove questa cosa è più avanti, a che punto sono con questo movimento? Cioè, ci sono già delle leggi, delle cose concrete? Ci sono già delle discussioni legate alle leggi, per esempio anche noi da qua stiamo discutendo le agevolazioni che spesso ricevono le aziende, ma a quali criteri vengono aderite? No, noi vorremmo che anche il bene comune, quanto un'azienda fa, è un criterio importante quando viene deciso chi riceve cosa. Oppure anche, cioè, in tutta l'Europa sono centinaia di aziende che sono già, fanno già parte di questo movimento, dove soprattutto anche come si dice, il learning, diciamo la condivisione reciproca di nuove idee, sì, vengono messe in atto, e questa è anche una cosa bella, che io ho uno strumento di sviluppo organizzativo legato non alla crescita, ma alla crescita di fatturato o di utile, ma alla crescita, diciamo, del bene comune, o di, diciamo, di come possiamo fare aziende che, dove al centro è il senso di tutto quanto. Tra l'altro proprio oggi c'è il meeting, no? Siete riuniti dove? Noi abbiamo sede a Prestanone, in Alto Adige. Sì, e vi state confrontando proprio su queste cose qua oggi? Sì, sì, sì. Oggi siamo qua in Corvara, in Alta Badia, presso l'albergo La Perla. Abbiamo appena avuto un incontro con 60 imprenditori, sì, di cui 3-4 banche che adesso faranno anche questo percorso, banche, diciamo, locali, anche diciamo regionali, dove partiremo con 10-15 alberghi che fanno questo, dove tutto quanto, per esempio la cucina, la carne, ma da dove viene la carne che uso in cucina? Da dove viene? Tutto quanto viene un attimo discorso e anche capito, ma da dove viene? Ma fa senso, diciamo, che la carne mi arriva dall'Argentina o posso prenderla di qua? Sì. Quanto viene ridiscusso? Se è più buona, vabbè, no, ma qui è altro discorso. Soprattutto se è un ristorante argentino, magari, a quel punto diventa sì, difficile. Grazie, dobbiamo fermarci qua. Gunther Reifer, okay, membro del Consiglio di Amministrazione dell'Economia del Bene Comune. Buona serata, in bocca al lupo per quello che fate. Ci sentiamo tra 20 anni, quando ci sarà qualcosa di concreto, forse. No, però è un movimento interessante. Si tratta di capire, di decifrare un po', perché parlano un linguaggio già che non siamo abituati proprio assolutamente a capire. And now, the good news! Quando la star è al servizio della solidarietà. Se hai un amico che adora un VIP, regalagli un momento indimenticabile. Acquista per lui sul sito charitystars.com la maglia autografata o la cena con la star. Gli incassi andranno in beneficenza. Very important portafogli. Commenti all'intervista di Reifer, l'economia del bene comune. Ci scrive un ascoltatore che non si firma, vabbè, dice, era l'idea di Adriano Olivetti ma si è rivelata fallimentare, no? Più che altro non è andata avanti, non so se poi si è rivelata fallimentare, chi lo sa. Paolo dalla provincia di Varese, buonasera. Buonasera a lei. Ascolti, io ho chiamato, sì, perché ho sentito l'intervento di un elettore centrodestra, tra l'altro, che era abbastanza, diciamo, no abbastanza, anche parecchio contro il fatto che si parla molto di Berlusconi, di questa condanna che ormai è definitiva, eccetera, eccetera, eccetera. E la cosa mi ha sorpreso molto, perché un elettore di centrodestra che si comporta in questo modo lo ritengo veramente uno che non capisce nulla. Cioè, perché? Nel senso che se uno è di centrodestra... Voglio dire, non si è... uno che dice che per 20 anni è stato a centrodestra, non si è reso conto in questi 20 anni che Berlusconi, da quando è sceso in politica, lo stanno impallinando quotidianamente dopo 3 mesi che aveva fatto il governo, il primo governo Berlusconi, ed è una cosa scandalosa, cioè, che tutti quanti vedono. Cioè, io non riesco ancora a capire come non ci sia, così posso dire, una maggioranza di persone, che c'è comunque nel paese, che non vota Berlusconi. Dovrete comunque uscire di casa e andare in piazza o da qualche parte a manifestare perché? Contro la magistratura. Ma guardi, quelli che la pensano come lei possono votare Berlusconi. Ma è stata fatta la manifestazione contro la magistratura? No, ma parla... Erano in 1005. Non sto parlando della manifestazione. Cioè, se uno è convinto di quello che dice lei e può fare la manifestazione e può votare Berlusconi, gli altri no, capito? Questo qui l'hanno voluto per forza condannare, ma è evidente, cioè... Lo vedono anche quelli che hanno le fette di prosciutto sugli occhi. Ma come? Ma se stiamo parlando di un ascoltatore che era pure del centrodestra che dice forse io ho avuto le fette di prosciutto sugli occhi per tutto questo tempo. No, infatti ho capito che non è così. È il contrario, perché questo qui non ha visto nulla. Cioè, ma questo lo dice lei, ognuno vede quello che crede, ma Paolo. Scusi, mi permetta di dire una cosa. Sì, anche due. Nel momento in cui, cioè, per tanti anni, cioè non è che sono 2 anni o 3, cioè sono 19 anni credo, forse più o meno, 20, cioè che la magistratura di Milano, per non dire qualche altra procura, lo sta perseguitando da tutti i lati, da tutti i punti di vista, cioè, e questa senta, non ma è una perseguitando, scusi, ci sarà stato accanimento su Berlusconi, no? Ma lui è stato il capo del governo tante volte, il capo dell'opposizione. L'importante è capire se la frode fiscale è stata commessa oppure no. C'è una sentenza di terzo grado. Di fronte a questo, lei Paolo, che dice? Stata commessa, le posso chiedere una cosa a lei? Sì. Le posso chiedere io una cosa? No, gliel'ho chiesta io, mi risponda. No, mi rifaccia la domanda perché forse non ho... Mi dica. Io dico, può darsi che ci sia stato e probabilmente c'è stato accanimento da parte dei magistrati nei confronti di Berlusconi, forse per questioni politiche o sicuramente anche per il ruolo che ha avuto Berlusconi, un ruolo capo del governo, capo dell'opposizione, leader di una grande impresa e sono 20 anni. Questo accanimento porta ad una condanna di terzo grado, ad una sentenza di terzo grado. Cosa facciamo di fronte a questo? Una condanna ingiusta, ma lo dicono anche gli esperti, cioè è una condanna che non ha senso, cioè lei ma mi gli esperti chi sono? Gli avvocati hanno un senso? Una domanda molto semplice, cioè sono stati rifiutati almeno 100 testimoni che avrebbero dovuto dire delle cose. Lei con quale criterio si rifiutano le testimonianze di persone? Non lo so. Va bene, Paolo, che dire? Cioè, questo è il suo punto di vista, è il punto di vista anche di altri, ma non è quello di tutti. Quindi è inutile stupirsi che non tutti la pensano come lei, perché questo altrimenti fa ridere. Grazie. Ivo dalla provincia di Ancona. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera, senta signor Maurizi. Adesso l'ultima telefonata è stata ulteriormente deprimente. Ulteriormente? Deprimente. Vorrei esprimere tutta la mia indignazione per l'ipocrisia orticante della Gelmini di ieri sera. Mm-hmm. Al di là del fatto che è un disco come un CD, questi dicono sempre la stessa, dopo di voi è andata la 7, sempre la stessa. Insomma, cosa volevo dire? È un disco come un CD? Che cosa significa? Cioè, invece che un disco rotto dice un disco come un CD? No, ma è sempre quella solita canzone. Allora, mi faceva ridere l'espressione. Maurizi, a lei la giustifico, ma alla Santanchè no. I gradi di giudizio nel sistema giuridico italiano sono due. Più c'è la legittimità, che non è un grado di giudizio, perché il merito sono due gradi di giudizio. Più la legittimità, che guarda se è stata applicata bene la legge. Chiusa la parentesi. Allora, volevo dire, questi signori della destra parlano sempre degli effetti della sentenza di Berlusconi, ma non parlano mai delle cause. Bisognerebbe spiegare agli italiani le cause perché un cittadino è stato condannato. Allora bisogna ricordare ai cittadini italiani che c'è stata una frode fiscale di 300 milioni di euro e per 7 milioni di euro è stato condannato quello che è stato condannato e sono stati prescritti con le proprie leggi. Ho capito, grazie Ivo, allora, è quello che stavo cercando. Grazie, pubblico, abbiamo capito. Abbiamo capito. Dire il processo pubblico, no? Sì, abbiamo capito Ivo, è quello che cercavo di dire all'ascoltatore di prima. Alessandro da Parma, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Allora, io non ho parlato per Berlusconi, ma Berlusconi non merita di essere condannato. Scusi Alessandro, ma lei dice non ha telefonato per Berlusconi e poi parla di questo. Di cosa voleva, l'ha chiamato? No, ma è solo una chiosa. Voglio dire, lui non, probabilmente è innocente o semi-innocente per frode fiscale, ma merita l'ergastolo per quello, per il personale politico che si è circondato e per l'inefficienza è la mancanza di aspettative e di ogni aspettativa che ha fallito, tutto qua politicamente parlando. Tutto il resto che la giustizia in Italia sia una cosa pericolosa lo sanno anche i sassi, solo gli opportunisti. Io ho telefonato per via delle prostitute, no? Il fatto che abbiamo dei politici, dei sindaci, o non importa cosa fanno, poveracci, che vogliono rinchiudere delle donne in una gabbia. Ora, se le prostitute vogliono fare delle cooperative, affittarsi una villa, un palazzo dove avere, ricevere i loro clienti, mi va benissimo. Ma che le istituzioni le chiudano? Lei pensa che ci sarebbe stata l'evoluzione umana se i nostri predecessori, gli scimpanzé o gli orango, o chi per loro è stato, sono i nostri progenitori, fossero stati chiusi in delle gabbie? Noi oggi saremmo quel poco che siamo. Non lo so. Ma in che senso se fossero stati chiusi in delle gabbie? Nel senso che l'evoluzione, il sindaco fa un referendum per abolire un pezzo della legge Merlina, non è che vuole statalizzare le prostitute. Il sindaco è un poveraccio che con perché? Non si merita, cosa vuole che sia un sindaco che ragiona in questi termini? Ma poi parla del nostro passato, quando le case chiuse c'erano, guardi, assolutamente, fino all'altro ieri. Cosa ne pensava Diderot delle prostitute parigine, che è uno dei grandi estensori dell'enciclopedia moderna? Guardi la veneziana, la commedia teatrale, una delle opere... Vabbè, insomma, Alessandro, il suo è un punto di vista un po' originale su questa vicenda qua. Cioè, lei va controcorrente su tutta la linea. Le prostitute vanno bene, possono stare per strada. Vabbè, questo è un punto di vista. Del resto, non ci avevamo pensato a questa ipotesi qua. È interessante, però. Sì, cioè, quella attuale. Sì, è l'ipotesi attuale. Sì, però spesso la gente si lamenta di questa cosa qua. Ma non si propone altro. Invece lui dice: va bene così, anzi, sono un tocco di colore. Insomma, ha citato addirittura Diderot. Cosa diceva Diderot, Alessandro? Sì. Cosa diceva Diderot? Lei, Diderot, paragonava spiritosamente, no? Sì. Le sue idee, che è il fondatore dell'enciclopedia moderna, Diderot. Sì, sì, sì, lo sappiamo. Cosa diceva Diderot? Un po' di illuminismo lo conoscerà anche lei. Cosa diceva Diderot? Paragonava le passeggiatrici parigine alle sue idee mutevoli, perché uno può avere tante idee e poi ne concretizza sempre poche nella vita. Anche Diderot si vede che non si considerava un padre eterno, e ragionava sulle prostitute che popolavano i boulevard, che quindi erano degli stimoli. Sì, sì, sì, è vero, come le idee che vanno e vengono. Va bene, grazie anche per questa citazione, per questa bella citazione su un argomento non ce l'aspettavamo, Diderot, su questo argomento qua. Adesso salutiamo l'onorevole Salvo Torrisi del PDL. Buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, come va? Tutto bene? Tutto bene, nel senso che dobbiamo auspicarci che le cose in Italia... È già partito così, era solo un saluto. Vanno un poco meglio. Ecco, lei viene annoverato. Viviamo una fase abbastanza turbolenta. Onorevole Torrisi, lei viene annoverato tra le persone che non sono disposte, pur facendo parte del PDL, a dare la priorità al tema dell'agibilità politica di Berlusconi, ma invece al tema del governo Letta, della stabilità. Ma guardi, è così? Io ho fatto un comunicato che ho precisato la posizione. Sì. Ho detto, ho espresso una mia posizione, che è quella di dire che sarebbe un clamoroso errore politico per il PDL, ma sarebbe dannoso per la nostra Italia se in questo momento questo governo venisse messo in crisi, se il PDL aprisse una crisi politica al buio, perché non ce ne sono le ragioni politiche a mio giudizio, no? È stato fatto un governo di convergenze ampie 4 mesi fa, nel presupposto che era l'unica soluzione possibile di governabilità per affrontare la gravissima condizione economica e sociale che vive l'Italia. Ma quindi Torrisi, il tema di Berlusconi, ma questo lo sappiamo, i punti, la convergenza, cioè, quindi il lei tema sta, di Berlusconi sta, deve essere posto. Non è politico, quindi, perché lei parla... No, il tema di Berlusconi, che sicuramente, come dire, ha avuto anche una sorta di persecuzione giudiziaria, se ha subito nel corso del ventennio in cui è entrato in politica circa 50 processi, questo non mi sembra normale. E però io dico che bisogna scindere i piani. occorre un'assunzione di responsabilità, e credo che Berlusconi abbia la testa, le qualità per fare questo tipo di distinguo. Una cosa è la questione del governo, il problema del governo che nell'interesse del paese, un'altra questione riguarda il tema di trovare soluzioni per assicurare nell'ambito delle regole, nell'ambito della nostra Costituzione, per assicurare agibilità politica a Berlusconi, e questo va posto politicamente anche con i partiti che sostengono, in modo particolare col PD che sostengono l'attuale governo. Sono due piani a mio giudizio diversi. Però qualora, come dice la Santanchè, dal PD non si otterrà nulla, vogliono far decadere Berlusconi, si voterà... Io non inseguo posizioni, ciascuno è libero, ciascuno esponente... Sì. Non insegue i falchi, sarà più che altro una colomba. Voglio dire, anche questa distinzione secondo me di tipo ornitologico mi pare inopportuna, tra l'altro voglio dire... viene vista soltanto all'interno del PD, ma mi pare che i falchi ci siano. Ci saranno anche nel PD, sicuramente. Anche PD. Però avete posizioni diverse, Torrisi. Questo è inutile di negarselo. Con la Santanchè. E anche voi altri della stampa ci dovete aiutare. Io esprimo una posizione. Ma non ci rifaccia l'elogio delle larghe intese, perché questo l'abbiamo capito. Cioè, le sto chiedendo, lei è d'accordo con la Santanchè quando dice che è già deciso il governo cadrà? No, ecco. No, la posizione della Santanchè, la mia storia, io appartengo all'area dei moderati, sì, per tradizione culturale, evidentemente è diversa da quella dell'onorevole Santanchè, che ha una sensibilità politica diversa della mia, ma in democrazia ci sta, è legittimo questo, che ciascuno esprime la propria posizione. Mi pare strano, voglio dire, che un partito che ha rappresentato nel corso di questo ventennio l'area dei moderati, come prima Forza Italia e poi il PDL, improvvisamente assume una posizione posizione che per il momento oscilla tra quello che dice lei e quello che dice la Santanchè. Lei dove è stato eletto? In Sicilia? Sono stato eletto in Sicilia, sì, al Senato in Sicilia. Quanti sono, secondo lei, i parlamentari che la pensano come lei, i senatori? Perché poi tutto si giocherebbe eventualmente al Senato. Secondo me non è neppure giusto così di fare, diciamo, un calcolo, un conteggio. Secondo me diversi la pensano come me, tra l'altro mi pare che alcuni si sono espressi pubblicamente. Sì. Io penso che molti, come dire, in questo momento così difficile hanno una posizione di grande responsabilità. La politica non può essere vista come uno scontro di pugilato, non può essere vista come un fatto agonistico. Qui stiamo parlando di una condizione che riguarda l'Italia, gli italiani, i cittadini italiani, il futuro. Certo. Ma qualora, onorevole Torrisi, dopo tutti gli approfondimenti del caso, dopo la votazione in Senato sulla decadenza di Berlusconi dovesse decadere, come i numeri per ora lascerebbero intendere, se Napolitano desse un incarico nuovo a Letta, per un Letta bis, lei sarebbe disponibile? Perché facciamo discorsi così che guardano a ipotesi che in questo momento... Ipotesi che sono, scusi, sono i numeri, scusi, perché, no, non perché ci aiutate, il PD... No, non scusi, ci aiutate, Torrisi, no, mi faccia rifare delicata. La domanda. Ragioniamo sul presente. Ad oggi non c'è questa ipotesi. Ma il 9 settembre inizia l'iter nella giunta. Il PD io ha detto che voterà il contro. PD in giunta, sì. Poi vedremo cosa accadrà. Io sono convinto che ancora una riflessione di tipo politico con il Partito Democratico può essere fatto sul tema della decadenza di Berlusconi. Il tema è politico, che non riguarda né il governo. Però ad oggi, Torrisi, lei è d'accordo con me col fatto che il Presidente del Consiglio. D'accordo con me sul fatto che al momento non c'è nessuna apertura sul voto contro la decadenza di Berlusconi da parte del PD. Questo lo vedremo, siccome la questione è molto tecnica e mi pare che perplessità sulla costituzionalità di questa norma ci sono, vengono avanzate da costituzionalisti che non possono essere definiti di area PDL, penso Nita, Capotosti, Fiandaga, delle perplessità ci sono. Sì, vabbè, Torrisi, però il PD ha detto che voterà per la decadenza. Allo stato attuale, per quello che facciamo un passaggio in avanti, perché questo è quello che è prevedibile. Questo lo vedremo ogni giorno alla sua pena, quindi questo lo vedremo responsabilmente. Io sono convinto che c'è spazio per trovare una soluzione che sia di tipo chiaramente. E qual è questa soluzione, onorevole Torrisi, secondo lei? Fare un approfondimento all'interno della giunta. Ma poi ci sarà un voto al termine dell'approfondimento, non è che si può approfondire tutta la vita. Alla fine si vedrà. Noi stiamo dicendo, solleviamo una questione giuridica, punto. Quando avremo la soluzione alla questione giuridica, che mi pare che è emersa e che da più parti viene condivisa, alla fine traremo le conclusioni. Va bene, alla fine traremo le conclusioni. Se le conclusioni sono favorevoli a quello che dice lei, allora non ci sarà nessun problema. Se invece non fosse così, scusi, io ma non è un giochino, è una domanda, onorevole Torrisi, è semplicemente una domanda. Le ho già risposto, dico che l'Italia ha bisogno di un governo, l'abbiamo costruito su un programma. A mio giudizio questa visione, non anche chi fa informazione, chi studia i processi sociologici, deve aiutare in questo momento a fare in modo che la vita politica italiana sia una politica di maggiore pacificazione tra gli schieramenti. Ma scusi, perché ma fare una domanda come questa va contro la pacificazione? Non so se in questo ventennio tutti, a cominciare dalle forze politiche, ma dico anche chi si occupa, chi commenta le vicende politiche, come dire, hanno aiutato invece ragionamenti che vanno nella direzione. Sì, però mi scusi, non ho capito, adesso sta facendo il processo alle intenzioni. Io le ho fatto semplicemente una domanda politica. Lei mi sembra che abbia anche risposto, che mette in primo piano l'importanza di un governo. Il governo Letta, secondo lei, sta lavorando bene. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa ne pensano i parlamentari su questo. Io le sto dicendo che sono per la tenuta del governo. Sì. Poi ci sarà una riflessione tipo politico nelle sedi politiche, dove il PDL, i gruppi parlamentari si dibatteranno su quello che accadrà, ma nessuno sa che cosa accadrà. Lei perché mi deve prevedere una cosa che nessuno sa? Perché allo stato attuale è quella più probabile, tutto lì Torrisi. Ma io non credo, io ho una previsione diversa e quindi sono ottimista. E qual è la sua previsione? Non ho capito neanche questo. È possibile che si trova una soluzione. Ma qual è questa soluzione? Che bisogna approfondire la questione della decadenza di Berlusconi. Ma dopo questo approfondimento qual è lo sbocco? Nel mio piccolo anch'io faccio il giurista, sono convinto che questa questione non sia automatica per come invece è stata vista. E quindi se si mette sul piano giuridico è cioè possibile. Non ci sarà un voto sulla decadenza di Berlusconi secondo lei? Questo ci sarà, ma poi vedremo come evolverà. Io dico che va affrontata anziché come se fosse una questione di persecuzione di Berlusconi, va affrontata in termini giuridici. E secondo me lo spazio per affrontarla in termini giuridici e per dare ragione alla tesi di chi sostiene che la decadenza non è automatica, non è un atto dovuto, lo spazio c'è. Questa è la mia posizione. Grazie, buona serata. Di nuovo, buonasera. Al senatore Torrisi. Siamo riusciti a capirci qualcosa? Abbiamo capito che è colpa tua, perché anche chi fa informazione deve aiutare questa pacificazione, Alessio, tu non aiuti a sufficienza. Ma è più semplice dire a questa domanda non voglio rispondere, anziché dire sono convinto che ci sarà una soluzione, poi non si capiva qual era la soluzione. Devo dare una mano a sta pacificazione. Adesso faccio un esame di coscienza. And now the good news. Dagli scarti al mondo. Anzi, dalle eccedenze di lana, latte, formaggio, olio, alla produzione di intonaci, vernici, isolanti, barche venduti in tutto il globo. È la felice storia della rete di imprese che fa capo a Edilana di Daniela Ducato. Lei ha inventato una filiera sostenibile dove non si butta via niente. Riescono a votare secondo il principio the law is the law is the law o secondo il principio yes, the law is the law but sometimes it cannot be the law. Questa era Daniela Urbinati, se non ricordo male, e questo era il suo punto di vista su quello che accadrà anche in Senato, e l'abbiamo dedicata a Torrisi perché lui dice ci sarà una soluzione, una cosa non si capiva quale, ci sarà un'altra soluzione e poi perché the law is the law is the law è la mia nuova suoneria, quindi il telefono, esatto. Eccezionale, eccezionale. 800 24 00 24, sentiamo i titoli del TG di Sky TG24, sentiamo per iniziati. 3%, le tensioni politiche fanno risalire lo spread. Maltempo d'estate, nubifragio a Roma, metro e strade chiuse, allagamenti anche nei musei, nuova tromba d'aria sul litorale. Prime risposte nell'inchiesta sul bus precipitato in Irpinia, i freni erano rotti, lo dice il perito di una delle famiglie coinvolte. Brucia il parco di Yosemite in California, le fiamme hanno già distrutto un'area più grande di una città come Chicago. De Laurentiis, furioso per come è stato curato Higuain a Capri e chiede 100 milioni di danni al comune e alla regione. Ok, allora riprendiamo con i vostri interventi. Abbiamo Simone che ci chiama da Bergamo. Buonasera Simone. Buonasera. Prego. Io ho telefonato sentendo il sindaco di Treviso che prospetta riapertura delle case chiuse, quartieri, luce rosse, rete. Il sindaco però di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, per l'esattezza. Sì. Ok, ecco, sono tutte cose irrealizzabili. Ecco, siamo in Italia. Mentre invece questo sindaco qua si vede che vive su Marte, perché specialmente anche nella sua regione, ecco, è pieno zeppo di case chiuse regolarmente autorizzate. Noi in Italia ne abbiamo, secondo i nostri sondaggi, ne abbiamo più di 20.000 con tanto di presa d'atto dei comuni regolarmente autorizzati. In che senso? Autorizzati da chi? Con praticamente per aprire un circolo privato non si fa altro che appellarsi all'articolo 18 della Costituzione italiana, libertà di associarsi per qualsiasi fine lecito. Ecco, si costituisce l'associazione dove aderiscono anche queste signore qua, senza appellarle a prostitute o roba del genere, anche perché adesso faccio un break, mi scusi, ma io cioè, non capisco a che titolo fatturerebbero le prestazioni, ma poi albo professionale delle prostitute. Guarda, in Germania esiste e pagano le tasse, sì, e questo è anche l'obiettivo del sindaco di Mogliano, non soltanto togliere la strada ma farle pagare le tasse. E in quella dei circoli è anche il nostro obiettivo, tenga presente che senza costituire l'albo delle prostitute, senza apertura di partite IVA, col nostro programma, il programma della Socifoi, lo Stato incamererebbe naturalmente imponendo a titolo forfettario attualmente, secondo il nostro programma, incamererebbe 6 miliardi. Ma il programma è di cosa? Ma, mi scusi, lei ci sta dicendo che lei con la Assocircoli in realtà già adesso è a conoscenza di 20.000 case chiuse che sono regolarmente... No. Noi siamo rappresentativi, non è che aderiscono a noi. Noi abbiamo già sondato più di 5.000 circoli che aderiscono al nostro programma di fiscalizzazione forfettaria. Ma fatelo, cioè, perché dov'è il conflitto fra le due questioni? Non riesco a capire. No, il conflitto fra le due questioni è che se una professionista, per noi sono le addette alle relazioni sociali dei circoli, sono le social relations, non sono le prostitute. Ma che però poi fanno le prostitute o fanno pubbliche relazioni? È un fatto nominalistico però, Simone, cosa cambia? Cambia? Cambia, perché queste sono magari anche studentesse future. Ma non vuol dire che se studiano però se fanno quel lavoro lì, è inutile dire social relator se fanno. Poi possiamo essere d'accordo sul fatto che social relator è uguale prostituta. Sì, però non sono bollate col marchio di prostituta, nel senso che non sono mai stati iscritti a un albo che secondo me... questo potrebbe anche essere una delicatezza, no? Però non cambia la sostanza, mi scusi. No, scusi, la sostanza cambia e come? E specialmente in fattori di crisi, poi adesso... La sostanza... entro in merito alle cifre che lo Stato incamererebbe immediatamente, senza passare dalle forche caudine del voto al Senato, del voto alla Camera, commissioni, parlamentari. Va bene, ma farebbero la fattura o no? No. Col forfettario. Ma il forfettario, scusi, magari c'è anche una baldracca che lavora pochissimo e ce n'è un'altra che lavora tantissimo. Ci avete un sito internet così ci informiamo su? No, non ce l'abbiamo. No. Il sito internet è un anno e mezzo che siamo nati. Ecco, bravo, fate qualcosa, fate un po' di pubblicità. Simone, mi faccia parlare un attimo. Simone, stia calmo. Fate un po' di pubblicità con tranquillità, con calma, questa vostra iniziativa. Mettetevi magari in concorrenza positiva col movimento del sindaco di Mogliano e del suo referendum per riaprire le case chiuse, perché comunque avete dei tratti in comune, potete fare un pezzo di strada insieme, perché così come ce l'ha raccontata non ci si è capito quasi nulla. Ha capito? Anche perché è semplice per per noi è complessa poi nell'attuazione, ma anche quella del sindaco non è perseguibile perché siamo in Italia. No, non è perseguibile, è un referendum. Se riesco a raccogliere le firme, si abolisce quella cosa lì e basta. Poi la legge Merlino è un'ottima legge che proibisce. Ma questo è un altro discorso, ma non è che è difficile o è facile. Lei dice la legge Merlino è una buona legge, loro dicono è una pessima legge. Questo è il mio punto di vista. Grazie. Simone, buona serata, no? Perché mi stava sfinendo e credo stesse sfinendo anche gli ascoltatori. O no, volevi continuare? No, volevo capire, nel senso che non ma va benissimo, nessun problema. Volevi capire, sei tu il capo, io sono uno stagista. Ma secondo me non si capiva nulla, e questo è il problema di Simone, che più domande gli fai, peggio è. Nel questo. Senso che il fatto di non bollarle come prostitute può avere un suo senso, ma quello sì. Si sceglierà tutto il nome, ci mancherà. Però era no, ero interessato era al nebbia. Fatto che ce ne fossero già 20.000 aperte, in questo senso. Titoli del TG1. Siria, si rafforza l'ipotesi di un intervento militare, gli USA opzioni tutte aperte, l'Italia non parteciperà senza un mandato ONU, giù le borse. IMU, accordo vicino a Palazzo Chigi, la trattativa finale, in corso un nuovo vertice, il ministro Lupi al TG1, ma saremo giudicati sui fatti. L'ottimismo di Alfano, incontri costruttivi, Epifani, su IMU, il PDL non lancia ultimatum al governo, servono soluzioni eque. Il pullman giù dal cavalcavia in Irpinia, un guasto e freni la causa della tragedia con 39 morti, a sostenerlo uno dei periti delle vittime. Al telefono con il Papa, il pontefice chiama sul cellulare una donna argentina vittima di uno stupro, lei dice ora so che non sono sola. Nuovi temporali sull'Italia, nubifragio di 2 ore a Roma, chiuso l'aeroporto di Fiumicino per mezz'ora, domani ancora pioggia. George Clooney sbarca in Laguna ed è già a mostra del cinema, tutto pronto a Venezia per l'inaugurazione di domani, questa sera prima mondiale di Le mani sulla città di Rosi, restaurato in digitale dopo 50 anni, da Leone d'Oro. Alessandro ci chiama da Ferrara, buonasera. Buonasera, io volevo parlare di cose dolci, dunque tirami su, io volevo spezzare una lanza a favore del Friuli, in quanto... per mie conoscenze, e poi si trova anche benissimo in internet, il tiramisù sarebbe nato a Tolmezzo negli anni 50, esattamente nel 50-51, all'albergo Roma, e inizialmente si chiamava Torta Torino in onore ai savoiardi che facevano parte della composizione. Ma lei di questa, perché chiama su questa cosa? Lei che chiama da Ferrara, cosa gliene frega di Tolmezzo? E tra l'altro ha nominato un sacco di paesi. Perché mi dispiace sentire che praticamente ci sono convinzioni che vengono ripetute, cioè c'è una cosa che viene ripetuta e rientra poi a far parte nella convinzione popolare, cioè il tiramisù non è né di Treviso né di Vicenza. Ma abbiamo bisogno di prove. In Carnia, esattamente. A Tolmezzo. All'albergo Roma, si chiamava Torta Torino, però è nata a Tolmezzo, è in Friuli, non c'entra niente, direi che sono un po' tutte le città d'Italia. E soprattutto non abbiamo capito perché lei da Ferrara è appassionata a questo dibattito. Perché lavora in cosa fa, il cuoco lei, Alessandro? No, assolutamente, io sono commercialista, guardi. Però le piace tanto il tiramisù? Mi piace il tiramisù, chiaramente. Lei lo fa in casa? Qualche volta. Ma ci dia una con prova? Con che ricetta lo prova? Fa, con i savoiardi o con i pavesini? Coi savoiardi, la ricetta originale coi savoiardi, allora inizialmente aveva il burro, e poi è stato sostituito, questo burro che era poi lavorato con lo zucchero eccetera, è stato sostituito dalla proprietaria dell'albergo Roma, che fino a qualche anno fa era ancora in vita, tra parentesi, è stato sostituito con il mascarpone, sempre zuccherato eccetera, caffè rigorosamente amaro. E successivamente il marito l'anno dopo l'ha chiamato tiramisù. Va bene, grazie forse Alessandro per questa ricostruzione, grazie. Con tanto di dettagli. Ma, è così. È bello perché dobbiamo raccogliere tutto. Dobbiamo richiamare Farinetti. Ognuno chiama e dice il tiramisù l'hanno inventato nel mio paese. La cosa bella è che siccome io e te siamo totalmente impreparati su questo, uno potrebbe chiamare e dire che è nato a Salerno. Certo. E noi ci e io segno ci Salerno. Faccio Fabrizio da Venezia, buonasera. Sì, buonasera a lei, radioascoltatore. Prego. Volevo intervenire, o meglio rispondere, a quell'ascoltatore di Varese, se non sbaglio un certo Paolo, che difendeva Berlusconi come perseguitato dal 93 da processi dalla magistratura di sinistra, diciamo. Sì. Io ho fatto una semplice equazione, non sono di sinistra, anzi mi dichiaro più di destra, ma non mi riconosco in questa destra. Il nostro Paolo che aveva chiamato prima non reputa possibile questa cosa. Se uno sta a destra deve essere assolutamente pensare che Berlusconi sia un perseguitato, giusto? Esatto, qui io non capisco questo, ma io faccio una semplice equazione indipendentemente da tutto. Cioè, se uno ha molti processi, secondo me è molto delinquente. Cioè, tanti processi, tanta delinquenza. Cioè, se la gente comune considera quanti processi ha proprio carico, io non so quanti... Guardi, sono le due teorie, c'è chi dice tanti processi, è la stessa cosa che dicevo a mia mamma, io ho passato tutta, diciamo, la mia adolescenza dal preside e io dicevo, mamma, sono perseguitato, e mia mamma diceva, evidentemente qualcosa hai fatto, perché se sei tutti i giorni dal preside, quindi sono le due strade, diciamo. Sono le due strade, però probabilmente tante volte la strada più semplice è quella giusta, senza andare a trovare tanti sotterfugi. Va bene, grazie. Non capisco. Grazie Fabrizio, buona serata. Giuseppe ci chiama dalla provincia di Pisa. Sì, buonasera. Senta, due considerazioni. Una sulla vostra rete, che io dal mattino fino a tarda notte la sento, il che ce l'ho un po' con il suo precedente collega, che quando chiude in faccia diciamo il telefono alla gente. Chi è il presidente, diciamo, collega? Dice perché Cruciani, non parla di questo programma, di Cruciani. Rete, sì, io vabbè. Ci venga a